Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. No, che bel fiore. Tutte le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno non mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. La mattina mi sono alzato, vela ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.